una solo con una protagonista in scena, ma in realtà i protagonisti sono anche i genitori ultra novantenni. Ci parli un po' di questo palcoscenico, di questi protagonisti e cosa devono affrontare nel contesto di un titolo molto molto intenso e particolare, Mariano? Allora, La morte ovvero il pranzo della domenica è un assolo di Serena Balivo, è un racconto, diciamo che è un racconto che il personaggio interpretato da Serena offre direttamente alle spettatrici e agli spettatori. In realtà racconta che, insomma, come molti di noi, ha questo rito del pranzo della domenica in cui da donna adulta, anche ormai un po' avanti con gli anni, va a trovare la domenica a pranzo i suoi genitori. Questi genitori, come dicevi, sono ultra novantenni e quindi non fanno altro che parlare della morte, di come fare per essere seppelliti, il funerale, di cosa ci sarà dopo, e via dicendo. Quindi diciamo che questo pranzo della domenica è un pranzo della domenica, diciamo che ruota tutto intorno a questo argomento della morte e dell'attesa della morte. Beh, molto particolare. Stavo pensando sulle tue parole perché i motivi di riflessione che scattano a teatro sono immensi, anche solo da una narrazione di presentazione. Allora, la domenica persino il creatore si riposò. La domenica è l'ultimo giorno della settimana, l'ultimo, attenzione, the last, no? Per cui anche questo aspetto domenicale, che a volte si vive con malinconia e allo stesso tempo è pur sempre nel weekend, è un momento che abbiamo per noi, per ritrovarci o anche per stare da soli. E pensate, grazie al teatro, cosa ha scatenato la mia mente in questo caso, fino a scomodare il sacro, l'altissimo, che appunto è un riposo, allo stesso tempo è l'ultimo giorno della settimana, quindi è un arrivo, in questo caso settimanale, ma qui si parla di un arrivo ben diverso. E però io ho, mi chiamano il dottor Divago, quindi mi piace divagare. E a proposito di letteratura, ma anche teatro, in tutto ciò troviamo una commozione, ma anche umorismo, parlando di un aspetto così solenne. Come si bilanciano questi due aspetti, Mariano? Sì, chi viene a vedere lo spettacolo si trova davanti un linguaggio tragicomico. Il linguaggio tragicomico è di fatto una nota che torna, che contraddistingue il teatro di Serena Balivo e del sottoscritto, e quindi in qualche modo il titolo La morte ovvero il pranzo della domenica e il suo argomento non devono spaventare. Non è uno spettacolo mesto, non è uno spettacolo triste, non è uno spettacolo avvilente, è uno spettacolo dove si ride, si sghignazza. E poi, come dire, una volta che Serena con gli spettatori ha instaurato, come dire, anche grazie alla leggerezza, un rapporto, e quindi li conduce nel suo viaggio di immagini, in realtà è chiaro che ci sono dei momenti in cui ci sono degli affondi di senso e dei momenti anche toccanti, commoventi. Diciamo che quindi è un'esperienza leggera che in alcuni momenti è chiaro che va fino in fondo alla ricerca di un appuntamento emotivo con le spettatrici e gli spettatori. È un racconto minimale, anche nella messa in scena troviamo la protagonista Serena Balivo, il tavolo, il pranzo, poco altro, e come dialogano con l'ambiente. Entriamo sul palcoscenico, di solito così strutturo le mie conversazioni, dopo la narrazione un rapporto con questo palcoscenico, Mariano. Il palcoscenico offre una specie di dipinto, in realtà delle alte tende che cambiano colore durante la serata in maniera legata al racconto, alla drammaturgia, hanno in basso questo tavolinetto con una sedia, neanche apparecchiato, con pochi oggetti, una bottiglia d'acqua, ma la particolarità è che questo tavolo è per metà davanti alle tende, nel luogo dove c'è l'attrice che gli spettatori possono guardare, e per metà è dietro, in un luogo che si manifesta di tanto in tanto grazie al gioco del disegno luci. Quindi di fatto è come se la creatura animata da Serena Balivo, che si rivolge agli spettatori, di fatto abitasse questo luogo di passaggio, questa soglia, questo confine tra la nostra vita e quello che, diciamo, vita non è o è altro. E quindi un lavoro di grande relazione anche, non solo con il pubblico, con l'ambiente, con la microsensazione portata da questi aspetti. Parliamo della protagonista in conclusione, Serena Balivo. Come ha affrontato questo testo? Certo, immagino con grande passione e con grande intensità, però ci puoi dire anche qualche altro aspetto a proposito di tutto ciò, visto che sarà sul palcoscenico per questo lavoro, Mariano? Serena Balivo, attrice con la quale io ormai lavoro da 15 anni, il nostro è un viaggio appunto comune, e Serena Balivo interpreta questa ormai matura figlia di questi due genitori, e lo fa, mi permetterei di dire, da par suo. Ha creato un personaggio, diciamo, in dialogo, in danza con le mie suggestioni e le mie parole, ha creato un personaggio che non stento a definire antiretorico, cioè davanti a un racconto che parla appunto della consapevolezza di doversi congedare dai propri genitori, perché prima o poi arriverà la morte, certo. Che fa dello spettacolo uno spettacolo che, se vogliamo, ha per argomento la morte, ma per tema anche il grande amore, la potenza dell'amore con le persone care quando arriva il momento del congedo. Lo fa con un personaggio antiretorico, un personaggio sempre sigaretta in bocca, che sghignazza, che ne ride, che gioca con il suo pupazzetto della morte, e in qualche modo appunto con arte Serena non raddoppia, non si sovrappone sulla narrazione, ma in qualche modo crea un personaggio che gli dia respiro alla narrazione e offra leggerezza e anche possa, come dire, fare una comunella, direi quasi quasi, con gli spettatori a cui racconta.